E allora buon pomeriggio a tutti e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli, come ogni giovedì pomeriggio in tall'aria, questa è Attica Blues. Oggi ce ne andremo in Giamaica, vero Luca? Sì, sì, oggi ritorna il reggae finalmente, quindi ritorniamo alla casa di Coxon Dodd, ossia la Studio One. La storica Studio One che trattiamo più o meno una volta al mese, quest'anno dopo che l'anno scorso abbiamo fatto la Trojan. Sì, sì, abbiamo affrontato un po' tutti i generi, un po' di gruppi, un po' di voci e oggi appunto dedicheremo la puntata ai maggiori gruppi che sono passati appunto per le mani sapienti di Coxon Dodd. E visto che oggi è ancora reggae, direi che vale il come again. Sì, vale, potete chiamarcelo 06 49 17 50 sia per comunicarci il vostro punto d'ascolto che per fare un trillino. Tra l'altro siamo a ottobre, quindi ricorre l'anniversario del Black History Month, come ogni anno in quel di ottobre, no, di Attica Blues, lo ricordiamo. Diciamo che coi gruppi ci tuffiamo in quelli che erano gli anni 70, il periodo dei tri vocali, dei gruppi in Giamaica che spopolavano in qualche modo. È proprio così e iniziamo dalla fine degli anni 60, esattamente nel 1969, quando in realtà loro all'inizio erano un duo vocale formato da Bernard Collins e il Donald Miking, che erano due compagni di classe, e appunto con la passione del reggae, della musica, e appunto incisero alcuni brani fino a che poi non incisero una hit, veramente una hit, chiamata Satta Massagana. Ovviamente stiamo parlando degli Abissini. Ma noi non ci ascolteremo però questo brano, che poi è diventato veramente una hit, anche diversi riddim hanno ripreso questo loro brano, che praticamente nacque da un rifacimento di un B-side chiamato Happy Land prodotto da Coxon Dodd, e quindi a loro venne l'idea di appunto proporsi a Coxon Dodd, che però non rimase particolarmente convinto di queste nuove sonorità, di questo roots che piano piano si stava sviluppando in Giamaica, e quindi decise di non produrli, però ne produsse anche un altro brano veramente famoso. Diciamo che Coxon Dodd era l'antica. Sì, sì, lui era. E non sposava le tematiche rastafariane. No, infatti poi lui subì anche comunque un declino, no? Quando si affermò il roots negli anni 70, lui che era più legato ai gruppi ska e ovviamente a rocksteady. E allora cominciamo subito con Declaration of Right degli Abyssinians. Ovviamente poi gli Abyssinians andarono altrove a produrre quella satta massagana che appunto diventò una hit. A quel punto però nacquero pure delle dispute sui contratti, perché Coxon Dodd insomma poi vide il successo e quindi non poté più inciderla per la Studio One, però rilasciò delle nuove versioni strumentali fatte da Jackie Me Too e Tommy McCook, e insomma sfruttò il rhythm di quel pezzo veramente storico. Brought us to sleep in this big plantation, busting and fighting among ourselves. Nothing to achieve this way, it's worse than ill. I say, get up and fight for your rights, my brothers. Get up and fight for your rights. E allora andiamo avanti con gli Ethiopians, questa è la loro Muddy Water. Ethiopians, un altro storicissimo gruppo dell'isoletta delle West Indies chiamata Giamaica. I've got to be strong. Ooh. problemi sociali in Giamaica negli anni 70 per quelli che erano i gruppi, questa Muddy Water, ma anche Declaration of Right. Questa invece è No Baptism, sempre gli Ethiopians. Tra l'altro furono portati a Studio One da un personaggio altisonante. Sì, sì, furono portati a Studio One da Peter Tosh, che incontrò Leonard Dillon, il cantante, proprio di Port'Antonio. Lui era di Port'Antonio. Lui nacque a Port'Antonio nel 1942. Tra l'altro, poi era cresciuto in una famiglia cristiana e scoprì la musica attraverso la chiesa, come spesso poi capitava. Come moltissimi degli artisti giamaicani che hanno iniziato a cantare nei cori di chiesa. E così poi si trasferì a Kingston, appunto cercando fortuna nel campo della musica, e lì venne introdotto da Peter Tosh, che già collaborava negli studi di Coxon Dodd attraverso i Wailers. Ethiopians, che in realtà poi erano un duo composto appunto da Leonard Dillon e Steven Taylor, e possiamo dire che è quel gruppo che ha guidato la transizione tra ska e rocksteady, ma anche poi i testi prevalentemente rasta di Dillon hanno anche aperto la strada all'era del reggae, delle radici socialmente consapevoli che ancora poi dovevano venire. I don't want no baptism. Un duo, ma anche un trio, perché poi appunto a Dillon e a Taylor si unì il chitarrista Aston Morris, che poi però lasciò gli Ethiopians qualche tempo dopo, e anche Albert Griffith, che poi in futuro fonderà i Gladiators, ha fatto parte appunto di questo duo, in un trio che ha tirato fuori diverse hit, tra l'altro anche quel Train to Skyville, che riuscì persino a scalare la top 40 nel Regno Unito. Sì, perché tra l'altro questi gruppi erano formati molto spesso da tre cantanti, proprio per creare l'armonia. C'era una voce solista e due che creavano l'armonia. Era un'usanza che in Giamaica prese piede appunto negli anni 70, nei primi anni 70. Sentiamo un altro brano degli Ethiopians, che non è Train to Skyville, ma è When Will Be the End. What is wrong with this current generation? Can they stop living in total despair? fun has torn us apart. Separation has left us with the broken heart. Corruption is slowly making lots of progress, because mankind has been living in a mess. Corruption is tearing us to pieces today. Corruption is taking the world away. Separation is playing. E ovviamente una cosa la dobbiamo dire sulla puntata di oggi, che abbiamo lasciato fuori due gruppi forse che più hanno rappresentato l'importanza per la Studio One, e parliamo dei Wailers, che hanno mosso i primi passi appunto negli studi Cox & Dodd, e ovviamente gli Scatalites, che poi erano la resident band di moltissimi gruppi fino al 1965. E salutiamo Davide e Antonio che ci hanno chiamato qua allo 06 49 17 50. Antonio ha detto che ci viene appresso col basso, e dai! Adesso passiamo agli Eptones, gruppo storico di Leroy Sibol, questa è la loro Baby. Leroy Sibbles, che era il leader di questi Heptons, non era solo poi un cantante ma anche un talentuoso cantautore, un arrangiatore, e poi divenne anche il tale scout e bassista del leggendario Studio One. Sì, tra l'altro ha avuto una grande carriera anche da solista dopo gli Heptons. Esatto, poi lui lasciò comunque Studio One nel 1971, in quanto comunque i suoi testi riprendevano appunto le tematiche rasta, e quindi decise di allontanarsi da Coxon Dodd. E possiamo dire che comunque gli Heptons sono stati uno dei pochi gruppi a fare successo con la transizione verso il reggae. Insomma, loro che erano nati con Rocksteady ebbero comunque molto successo e rimasero con lo Studio One per ben 5 anni, fino appunto al 1971. I'm gonna treat you right. I'm gonna love you day and night. I'm gonna give my heart away. I'm gonna give you pure degli Heptons ci sentiamo tre brani. Quello che sta per partire è Party Time, sempre alla Studio One, sempre loro. Ancora dagli Heptons di Leroy Sibbles, Sea of Love. Brani che in Giamaica hanno fatto la storia. Time. appunto dal 1972, quando lasciarono gli studi di Cox & Dodd, iniziò poi un tour virtuale dei principali produttori della Giamaica. Loro si rivolsero a Joe Gibbs, a Harry J, Augustus Pablo, e poi nel 1973 si trasferirono addirittura in Canada a cercare fortuna, ma poi insomma tornarono in Giamaica, e nel 1975 finalmente anche una major li mise sotto contratto, l'Island. In realtà poi durò pochissimo, giusto un anno, e poi infatti nel 1976 loro fondarono una loro etichetta, la Night Food. Allora, li abbiamo nominati prima, quelli che vengono adesso sono i Gladiators, questa loro Feeling It, Gimme. Sempre Gladiators, quella che viene adesso a Rearrange. E questa la voglio dedicare a Giulia che ci ascolta da Firenze, festeggia il suo 30 ascoltando la nostra musica. E allora, questa è tutta per te, Gladiators. Gladiators hanno meritato ben 4 pezzi, quello che ci ascoltiamo è il terzo, Bongo Red. Gladiators, inizialmente formati dal duo, formato appunto da Albert Griffin e David Weber, che era il fratello delle famose Weber Sisters. E poi appunto nel 1968 si unì a loro Harold Gradison e nacquero così finalmente i Gladiators. E il primo grande loro successo arrivò proprio con Coxon Dodd, quella famosissima Elor Carol, che superò appunto le classifiche giamaicane già alla fine del 1968. E poi un gruppo che ha avuto anche però delle rivoluzioni al loro interno, in quanto comunque Weber aveva iniziato a dare segni di malattie mentali, e così il duo rimasto fu costretto a sostituirlo, però insomma arrivò un cantante di nome Clinton Fearon, che comunque ha fatto anche lui la fortuna dei Gladiators. Gladiators, che firmarono anche per la Virgin Records un album meraviglioso, quel Trench Town Mix, e collaborarono poi anche nel 1974 con un personaggio chiamato Lee Scratch Perry, con cui però non andarono molto molto d'accordo. Questa era la loro Roots Native Studio One. I had a vision last night that I was walking on a street of the road. This street that I saw is where I and I should have been, but not until we stand up, fight for our rights. Gladiators sono stati prodotti pure in Francia negli anni 90 da un'etichetta chiamata Taboo One. Molto famosi Gladiators, molto famosi in Giamaica, ma fino agli anni 80 neanche troppo poi nel resto del mondo. E quindi a loro, a questo trio, si unì per un breve periodo Eddie Grant, il cantante, però insomma i risultati furono decisamente commerciali e si abbandonò a questa strada. We are all of one skin, same blood, same soul. But there are some who think dreadlocks don't count. Dreadlocks, the time is now. Stand up, fight for your rights, or you ain't gonna get your culture, man. Roots native, don't give up. Passiamo a un gruppo decisamente meno conosciuto, sto parlando dei Viceroys, questa è la loro Magadown. You took me away from the rest of the girls and want me to love you like this. Just because I told you, girl, my love will never forget what I said. Magadown, you Magadown. Just can't love me like that, girl. Magadown, you Magadown. You don't know the way how to act. I will be your number one, darling, as long as I can. But you act. Magadown, questa è Magadog, era un pezzo di Peter McIntosh. Magadown, you Magadown. You just can't love me like that, girl. Magadown, you Magadown. You don't know the way how. E allora, Trillino, ci sto dentro e te la rimetto punto e da capo. Magadown, Viceroys. You took me away from the rest of the girls and want me to love you like this. Just because I told you, girl, my love will never forget what I said. Magadown, you Magadown. You just can't. You don't know the way how to act. I will be your number one, darling, as long as I can. But you're acting wild, you're breaking style, and you just can't love me like that. So you gotta maga down your maga self. You just can't love me like that, girl. Maga down your maga self. You don't know the way how to act. Vi sarò allora il cantante, il leader Wesley Tynglin si trasferì poi a Kingston quando in tenerissima età aveva 12 anni e così crebbe ascoltando i Wailers, i Maytals, e formò ben presto un trio vocale, questo Viceroy's, con Daniel Bernard e Bunny Gile, e subito loro ottennero un provino per Coxon Dodd, che li mise sotto contratto nel 1967. Maga don't you maga say, you just can't love me like that, girl. Ci sono qualche brano, Lost Again, Fat Fish, che però non andarono un granché bene. Però nella seconda poi sessione di registrazioni ci sono diverse hit che poi appunto scalarono le classifiche, come Last Night e questa Yahoo. Allora pure dei Viceroy Royce abbiamo messo in scaletta tre brani, quello che ci andiamo ad ascoltare è Shake Up. Get up, ha. Get up and shake up. All right. Get up. Get up and shake up. It's rock steady time. Get up. Got to do something. Get up and shake up. Oh yes. Shake and let me feel alright. Oh, you big fat lady. Move up. Move in the groove now. Move in the groove now. Alright. Push up. Ha. Push up and shake up. Got to do something. Get up. It's rock steady dance. Get up and shake up. Oh yes. Shake and let me feel alright. Oh, you big big fat lady. Shake up. All right. Get up. Get up and shake up. It's rock steady dance. Get up. Got to do something. Get up and shake up. Oh, yes. Shake and let me feel all right. Oh, you big fat lady. Move up. Ha. Move in the groove now. Right in the groove, yes. Push up. Huh. Push up and shake up. It's rock steady dance. Get up. Get up. Get up and shake up. Oh yes. Shake and let me feel alright. Oh, you big fat lady. Get up. Ha. Get up and shake up. Alright. Get up. Get up and shake up. It's rock steady time. Get up. Got to do something. Get up and shake up. Oh yes. Shake and let me feel alright. Ha. Oh, you big fat lady. Move up. E allora l'ultimo gruppo che abbiamo selezionato in scaletta per questa selezione dei gruppi a Studio One sono i Wailing Souls. Questa è la loro Back Out With It. The Wailing Soul era quel Winston Matthew che mosse i primi passi dal produttore Joe Higgs, che poi gli affiancò due suoi compagni di classe, Lloyd McDonald e George High. E così si formarono appunto nel 1965 i Wailing Soul, che passarono, anzi, inizialmente prevedevano anche un chitarrista che poi divenne veramente famoso in Giamaica, ma non solo, sia Ernest Ranklin. E da lì appunto si passarono poi all'etichetta di Coxon Dodd e ci rimasero per ben 3 anni, incidendo veramente tante tante hit. I'll tell you one more time. I'll be there. Sol, poi, che forse sono il gruppo che ha cambiato più volte il loro nome, e veramente sono tantissimi nomi con cui appunto si facevano poi chiamare in base alle tournée, agli album, ma cambiarono tantissime case discografiche, uscirono in Inghilterra con alcune veramente mai sentite. Quando poi invece nel 1970 il quartetto si trasferì addirittura alla Tuff Gong dei Wailers, e quindi incisero proprio per l'etichetta di Bob Marley. Un po' la voce mi ricorda quella del primo Bob Marley. Sì, la voce di un giovane Bob Marley, molto simile, sì. E allora, ultimo brano in scaletta per noi, sempre Wailing Soul, questo è loro Faya Coleman. E questo è probabilmente il brano con cui hanno avuto più successo, ed era appunto un brano registrato al ritmo di Burning in My Soul dei Silver Stones. Allora, a proposito dell'isoletta di Jamaica Star, vi segnaliamo un concerto che si terrà a fine mese. A fine mese c'è una voce caratterizzante anche dell'isola di Giamaica, una voce storica. Una voce femminile, tra l'altro. Sì, e che voce? È quella di Sister Nancy, che sarà appunto l'ultimo venerdì di ottobre in concerto qui a Roma. Allora, vi ricordiamo che trovate tutti i nostri podcast, le scalette, le storie delle puntate, la foto abbinata a ogni puntata sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info. Andate a palinsesto, giovedì pomeriggio trovate Attica Blues, cliccate e si apre la nostra pagina. E ovviamente ci sono anche le pagine social di Attica Blues su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Spotify anche la nostra bellissima playlist di oltre 40 ore di musica, e insomma, cercateci e ascoltateci. Hey, you calling? allora noi vi salutiamo e vi rimandiamo a giovedì prossimo, sempre alle 4, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.